as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui oggi con il pane e le rose, puntata dovuta. Queste sono le classiche puntate che bisogna farle per forza. Infatti non sono proprio così entusiasta, perché in realtà sto parlando dello sciopero del 12 dicembre, che è stato uno sciopero che comunque, a fronte della propaganda della destra di questo paese, in cui sia stato completamente un flop, in realtà, almeno a Bologna, le fabbriche, insomma, sono quasi svuotate, diciamo, non completamente, ma quasi svuotate. E la manifestazione, c'erano massimo 3.000 persone, qualcosa in più, forse 5.000. Nei momenti più in cui c'era più gente, in cui si marciava, ecco, è stato un po' triste, però lo sciopero era giustissimo da fare. Peccato non si è fatto insieme, poi ne parleremo nelle conclusioni. Questa puntata l'abbiamo organizzata così: adesso un pezzo musicale, poi ascolteremo il segretario della CGIL di Bologna, Bulgarelli, che ci spiegherà le ragioni dello sciopero. Poi abbiamo intervistato così prima Colla, che è il vicepresidente dell'Emilia Romagna, che ha la delega allo sviluppo economico, formazione, università e ricerca, e con cui abbiamo parlato. Lui era lì presente, tra i pochi politici che ho visto, volevo capire anche l'aspetto politico, no, di chi scendeva in piazza, come la pensava. E poi ho partecipato, insomma, alle varie interviste fatte a De Pasquale, che era lì che rispondeva ai giornalisti. Ho fatto una domanda verso la fine dell'intervista, ho riportato, insomma, quello che lui ha dichiarato anche agli altri giornalisti che erano lì, testate televisive per la maggior parte, in cui spiegava le ragioni, secondo lui, dello sciopero e perché lui era sceso in piazza insieme ai manifestanti. Ecco, queste tre interviste oggi che non la puntata, ci sentiamo poi per le conclusioni. A dopo. You were my friend, but this is Allora, siamo qui con Michele Bulgarelli, segretario della CGIL di Bologna. Oggi giornata importante, sciopero contro il governo. Sì, per una manovra ingiusta e sbagliata, una manovra, possiamo dirlo tranquillamente, la peggiore dei 3 anni del governo Meloni. Loro lo sanno che non c'è il consenso dei cittadini e dei lavoratori su questa manovra e quindi attaccano tutti, i lavoratori, i sindacalisti, i magistrati, i giornalisti, gli insegnanti, il Presidente della Repubblica. Negli ultimi giorni sono arrivati anche a attaccare la nostra città e la nostra università. Addirittura. Questo sciopero, le ragioni di questo sciopero? Scioperiamo per un fisco giusto. Non è possibile che in questo paese siano aumentate le tasse attraverso il sistema del fiscal drag e anche i rinnovi dei contratti nazionali di fatto vengono ulteriormente impoveriti perché i lavoratori finiscono a pagare più tasse di quelle che pagavano prima. E poi aumentano l'età pensionabile per tutti. Non c'è uno straccio di politica industriale e l'industria la devono difendere gli operai davanti ai picchetti, davanti ai cancelli. E io penso che dovremmo ringraziare tutti i lavoratori dell'Ilva di Cornigliano che con 5 giorni di sciopero hanno difeso la loro fabbrica, la loro città e il settore dell'acciaio nel nostro paese. E scioperiamo anche perché si continua a morire sul lavoro, 3 morti al giorno, come ci ricorda Carlo Soricelli dell'Osservatorio Indipendente sui morti sul lavoro. Scioperiamo per dare un futuro ai giovani che lasciano il nostro paese, 93.000 nel solo 2024, e scioperiamo perché questa è la finanziaria del riarmo. Mentre si fa pezzi lo Stato sociale, si sceglie di investire sul riarmo e riarmo chiama economia di guerra, riarmo chiama la leva. Noi non ci arruoliamo e diciamo fermatevi. Oggi nelle fabbriche si discute di questo, no? Riarmo sì, riarmo no. Spesso viene vista da alcuni come una delle soluzioni, quella di far andare avanti le fabbriche. Come ci poniamo noi davanti a chi dice che può essere una soluzione alla disoccupazione? No, è sbagliato. Dobbiamo investire su un'altra idea di società, la lotta contro il riarmo, contro la militarizzazione della società tiene insieme tutto, quella della giustizia climatica, del diritto allo studio, dello Stato sociale, della sanità, della scuola pubblica. Un paese che sceglie la militarizzazione vuol dire che attaccherà il diritto di sciopero, attaccherà il dissenso, criminalizzerà i poveri, marginalizzerà i migranti, deporterà i migranti. Noi diciamo c'è un'altra idea di società e tra l'altro questo è un paese la cui maggioranza è assolutamente contro il riarmo e contro il ritorno della leva. Un'altra cosa che volevo chiedere, nelle fabbriche noi abbiamo fatto le assemblee chiaramente e molti ci dicevano ma è il classico sciopero generale che si fa tutti gli anni contro il governo. Cosa diciamo a queste persone? Che questo non è l'unico sciopero perché veniamo da un autunno di piazze piene per la Palestina globale, per la Global Summit Flottiglia, per la pace. Siamo già ad almeno 16 ore di sciopero, 20 ore di sciopero in realtà proclamate dalle sola CGIL in quest'autunno. Abbiamo alle spalle i mesi straordinari della campagna referendaria. C'è un'onda lunga di mobilitazione permanente e non finisce certo qui. Abbiamo già l'appuntamento per cui la CGIL ha scelto di sostenere il no al referendum sulla legge Nordio, che è una legge sbagliata, che indebolisce la divisione dei poteri nel nostro paese e punta a mettere sotto controllo del potere politico la magistratura. Quindi non è uno sciopero a spot, è uno sciopero necessario perché se non si faceva questo sciopero voleva dire accettare che si potesse fare questo tipo di finanziaria senza un'opposizione sociale del mondo del lavoro, degli studenti che tra l'altro oggi partecipano al corteo con un loro spezzone e dei pensionati. Un'altra cosa ti volevo chiedere, che se è l'ultima, molti ci chiedevano perché non abbiamo rifatto la grande manifestazione del 3, com'è che non ci siamo riusciti? Ma non mi pare ci fossero le condizioni fin dal fatto che altre organizzazioni hanno proclamato da subito una loro data senza percorsi comuni, però non vedo piazze in contrapposizioni, quello che ci accomuna è la contrarietà a una finanziaria, alla scelta della guerra, alla scelta del riarmo. Tutte le piazze che chiedono pace, diritti sociali, stato sociale, scuola pubblica, politica industriale vanno bene. Ok, grazie mille Michele. Grazie a voi. Allora, siamo qui con Colla. Insomma, oggi 12 dicembre, sciopero generale. Ci siete qui? Intanto l'istituzione, quando ci sono dei lavoratori che scioperano, è giusto che siano vicini a loro, anche perché non è che si divertano a perdere lo stipendio. E poi condividiamo le motivazioni del giudizio su questa finanziaria che è anemica, non progetta lo sviluppo, non ha un senso di futuro. E progettare una legge di finanziaria a percentuali di PIL decimali si firma dalla cassa integrazione. Certo. mentre invece avremo bisogno in questa fase di progettare le filiere strategiche, recuperare sull'automotive, recuperare sull'acciaio, recuperare sulla chimica, avere una nuova idea sull'autonomia energetica. Queste cose non ci sono, sono ancora condoni, non c'è più, è sparita. Sono ancora diciamo operazioni trasversali, un po' Natale tutto l'anno per tutti, senza avere un'idea del dove stiamo portando il paese. Quindi le motivazioni di questo sciopero sono, per quanto ci riguarda, coerenti anche con il tratto che stiamo posizionando. Una cosa che ti volevamo chiedere è, in fabbrica noi abbiamo fatto le assemblee e abbiamo spiegato che questa manovra è una manovra di guerra, si va verso il riarmo, e il riarmo è spesso una cosa che cozza con i lavoratori. Ma intanto questa discussione che il riarmo risolve i problemi diciamo della manifattura, dell'industria, è una barzelletta. Intanto l'industria del riarmo quota il 3%, quindi il problema è mettere a posto il 93% prima di pensare che il 3% mette a posto il 97%, ecco, questa è la valutazione. Un'altra ultima cosa che ti vogliamo chiedere è, molti in fabbrica, l'opposizione in realtà, ai tuoi parti l'opposizione, non la vedono così attiva come vorrebbero, su proposte, anche sulla guerra, sul resto. Ma io non farei questo scontro, perché abbiamo bisogno di opposizione in questo paese, teniamoci il pluralismo, debole e forte che sia, ma teniamoci il pluralismo. No, ma sono d'accordo. Vedo uno scenario in giro per il mondo dove sembra che la democrazia sia un impiccio, mentre invece teniamoci il pluralismo e l'opposizione dal punto di vista democratico, vale probabilmente a tutti, è un tratto di rafforzamento democratico. Ecco, cerchiamo di evitare, voglio dire, l'autarchia, che ne vedo un po' troppo in giro per il mondo. Ok, ti ringrazio. A voi. Questo governo non adegui i finanziamenti alla sanità pubblica a quello che servirebbe, diciamo, non è una sorpresa, ma questa è una manovra che non sostiene nemmeno la crescita, e che, diciamo, una manovra di un governo che si è sempre dichiarato vicino alle imprese, allo sviluppo, dichiari che è a crescita zero, dopo 30 mesi ormai di calo della produzione industriale, non può che vedere, diciamo, oltre che la critica, anche la sorpresa, perché sotto questi punti di vista credo che tutti gli italiani si aspettassero di più dal governo, e le risposte non ci sono. Per una terra come l'Emilia Romagna poi c'è anche il problema di una crisi che, insomma, morde. Sì, sono uscite ieri, diciamo, i dati sull'export, sono lievemente positivi nell'ultimo semestre, l'Emilia Romagna si sta difendendo, il calo della manifattura europea e di quella italiana è chiaro che qui colpisce più forte. Noi, grazie, diciamo, anche ai sacrifici, allo sforzo delle imprese, del mondo del lavoro, stiamo fronteggiando questa dinamica, ma il calo della produzione industriale, diciamo, rischia di diventare irreversibile se non si fa qualcosa, e le risposte, qui lo dico con chiarezza, sia dell'Unione Europea che del governo italiano sono assolutamente insufficienti, quindi serve uno scatto. Pensa che questo procedere di visita da parte dei sindacati in questa fase possa alla fine danneggiare la loro battaglia? È chiaro, diciamo, che per chi ha la mia cultura politica il tema dell'unità sindacale è un tema molto importante, poi va anche detto, nel senso, sono discussioni di merito, ogni sindacato decide come condurre le proprie trattative, di come esercitare il proprio ruolo. Io, quando c'è una manifestazione che porta avanti idee che condivido, non guardo il colore della sigla, aderisco. Sempre gli ultimi. Andiamo a far parlare tutte le categorie. Perché la manovra è una manovra sbagliata e ingiusta. È sbagliata perché non difende la salute pubblica, perché riduce gli investimenti sulla scuola, e queste, diciamo, sono scelte che ci si poteva anche aspettare da questo governo. Ma che una manovra di un governo che si è sempre dichiarato amico delle imprese veda crescita zero, non faccia nessun investimento sulla crescita e sullo sviluppo, e quindi poi determini anche 30 mesi di calo della produzione industriale, aumento delle ore di cassa integrazione, tradisce tutte le promesse che questo governo aveva fatto. Quindi, al di là, ripeto, di chi lo ha sostenuto, di chi lo vota, di chi non lo vota, che la manovra sia totalmente insufficiente mi sembra evidente. Una manovra fatta sulle armi, sul riarmo, perché si hanno miliardi alle armi, cioè, cosa ne pensa? Il PD cosa pensa di questo? Il PD parla il PD, io sono il Presidente della Regione. Io penso che la strategia sulla difesa dell'Unione Europea sia completamente sbagliata. Okay. penso che si stia, diciamo, non si stia perseguendo l'obiettivo di una difesa comune, che si vada in ordine sparso paese per paese e che in questo momento la priorità dell'Italia è rilanciare la produzione industriale e difendere la salute pubblica. Quelle mi sembrano le due priorità del nostro paese. Grazie. Allora, avete ascoltato, chi si fosse solamente collegato da poco, c'è stata l'intervista di Bulgarelli, quella del segretario della CGIL di Bologna, quella di Colle, il vicepresidente della provincia dell'Emilia Romagna, e poi De Pascale, che è il presidente della nostra regione. Ora, io condivido moltissime cose che ha detto Bulgarelli, chiaramente tutte le cose, cioè, le cose che ha detto Michele sono oggettive, bisogna scioperare, c'è un grosso rischio che questo governo devasti questo paese completamente, e dunque sia dalla parte della giustizia per quanto riguarda poi tutto l'aspetto dei piani industriali inesistenti, a dire la verità sono anni che non esistono i piani industriali, e il problema, insomma, dei salari, il problema dei tagli alla sanità, alla scuola pubblica e al problema del riarmo. Vengono deragliati tutti questi soldi. Pensate che Landini ha spiegato benissimo la questione dei 25 miliardi. Noi abbiamo pagato 25 miliardi in più di tasse perché non abbiamo una legge sul drenaggio fiscale. Tutti gli aumenti, abbiamo fatto delle puntate sugli aumenti dei metalmeccanici, no? Che secondo me erano insoddisfacenti, però 300 euro l'ultimo contratto portato a casa, ma nel netto, io che sono metalmeccanico, ho avuto 305 euro di aumento, ma il netto sarà del 20% di questa cifra, 30%, l'aliquota è salita talmente tanto con gli aumenti che tutto quello che io ho guadagnato mi è mangiato con le tasse. Questa è una delle ragioni che ha portato molti lavoratori a scioperare. Peccato che non è riuscito a portare tanti lavoratori in piazza. E su questo io vorrei fare una riflessione. Certamente Michele c'ha ragione. Come si fa a fare uno sciopero insieme nel momento in cui un sindacato proclama da solo lo sciopero insieme ad altri? E non so se si sono sentiti o meno, comunque nel momento in cui hanno deciso e hanno chiaramente detto che le piattaforme, io li ho intervistati, la puntata precedente abbiamo fatto la penultima puntata, proprio abbiamo parlato dello sciopero del 28, abbiamo intervistato i segretari, avete sentito tutti quanti che dicevano chiaramente che le piattaforme erano diverse e dunque non si poteva scioperare insieme. Io penso che sia un errore. Quello che è mancato è stato lo spirito del 3 ottobre. Quella manifestazione veramente c'era gente che scendeva in piazza contro un governo che appoggiava uno stato genocida, c'era una forte motivazione, certo era univa tanto questo, è un argomento che unisce tanti, cioè su questo sono tutti d'accordo. Il problema è che quando poi si va a criticare il governo ci sono posizioni diverse e si rischia di andare separati e questo non aiuta la gente che già sa che fondamentalmente ci sarebbe stata poca gente, perché una delle cose che ha spinto alcuni dei miei colleghi a non venire è che sapevano che non ci sarebbe stata una grande manifestazione da poter partecipare. Ciò che il 3 ottobre è successo, ho visto tanta gente che non viene mai perché sapeva che sarebbe stata una cosa molto bella, che aveva un senso, no? Una grande manifestazione ti va. Se tu sai che a Roma ci saranno di nuovo 3-4 milioni di persone, ma sei spinto ad andarci e ci arrivi veramente a quella cifra. Se pensi che a Roma massimo 50-60 mila persone andranno, molti dicono che ci vado a fare. Una classica manifestazione da poco senso. E questo è che bisogna fare. Bisogna trovare il modo per riprendere uno spirito, coinvolgere tutte le persone, a cominciare dai lavoratori, proseguendo il discorso del 3 di ottobre. Cioè, c'è un problema comune che è un governo che va cacciato, bisogna essere onesti su questo. La CGIL deve fare uno sforzo, essere più radicale, e gli altri devono fare uno sforzo, essere un po' più, non dico concertativi, ma almeno collaborare con gli altri sindacati per aumentare il fronte. Cioè, il fronte unico contro il governo, io penso che sia un obbligo. E i lavoratori te lo chiedono. Questo è un appello che io faccio alle burocrazie della CGIL e sindacati di base. Per favore, c'è bisogno di un'unità, non sindacale per forza, ma sulle lotte, davanti a obiettivi comuni si organizzano manifestazioni e scioperi comuni, cioè non per forza sulle stesse piazze, ma almeno lo stesso giorno. Per insomma, sappiamo che ci sono delle differenze, dei problemi enormi, però si potrebbero superare. Se non si riescono a superare, però almeno su alcuni aspetti bisogna marciare insieme, e così si può cambiare veramente questo paese. Alla prossima puntata.